Buon pomeriggio, siamo al telefono con Lorenzo Fringuello, in alto Fringuello, e con Leonardo, il chitarrista del progetto. E grazie mille della disponibilità, grazie mille di essere qui. Grazie a te, grazie a te. Ciao a tutti. Allora, voi venerdì 15 novembre sarete ad Efesto, qui a Bologna. È la prima volta che venite a nome Fringuello a Bologna o siete già stati? Allora, sì, in verità il primo concerto che facciamo fuori da Lombria. Sì, esatto, questo progetto, sì, assolutamente. È la prima volta che veniamo a Bologna e non vediamo l'ora. Io poi con altre formazioni pure non c'è la primissima volta. Quindi c'è un po' di agitazione, com'è l'atmosfera vostra? Ma agitazione no, perché comunque è una cosa bella. Siamo emozionati nel senso positivo del termine, tutti quanti, ecco, tutti anche gli altri componenti della band, siamo carichi. Ok, Lorenzo, che dà poi il nome a questo progetto, tu hai suonato in vari progetti e poi dal 2020 hai scelto di diventare progetto solista, poi accompagnato chiaramente da band. Come mai questa scelta? La scelta è perché ho fatto i primi due album che comunque erano cose che ce la facevo a fare, diciamo, anche solo. Poi quando ho iniziato a mettere giù canzoni ho capito che comunque andava a servire o qualcuno che suonasse con me e che comunque andava ad aiutarmi a fare, diciamo, di quelle cose di arrangiamento. E quindi ho chiamato il quistante Leonardo. Cioè, allora, noi due ci conosciamo da 20 anni, però suona insieme non è che l'avevamo fatto mai, e quindi a me mi è sembrata un'idea interessante. E quindi abbiamo fatto uscire il primo album così, e ci siamo andati a fare qualche live e abbiamo prima trovato il batterista Giorgio e poi ultimamente il bassista. E eccoci qua. Quindi ora siete una band a tutti gli effetti, proprio, tutti con gli tutti effetti. I componenti. Infatti il secondo album ci saranno, diciamo, degli interventi anche, diciamo, di un pochino tutti quanti questi qui componenti, e siamo di questa proprio una band ormai, sì. Ok, e a gennaio 2024 è uscito Iceberg. Sì. Cosa racconta questo disco e anche musicalmente com'è? Che tipo di musica propone? Allora, il disco è un disco indie folk in stile americano, con anche qualche rimando degli anni 60, possiamo dire, quelli inglesi. Che racconta? Racconta che avevamo voglia di fare queste canzoni. Cioè, non c'è proprio qualcosa che racconta. Un'idea, diciamo, alla base del progetto proprio limpida. È stato... è curioso forse come anche è nato, nel senso che Lorenzo mi ha coinvolto, era il 2022, ci abbiamo messo 2 anni, sì, e mi ha fatto sentire queste demo che aveva di alcuni pezzi, insomma, che poi sono finiti su Iceberg. Mi ha detto, insomma, mi ha chiesto di vederli insieme a lui, di arrangiarli insieme a lui, e quello che abbiamo fatto. Quindi diciamo, le canzoni erano già abbastanza scolpite per quanto riguarda... erano scritte le canzoni, però nel senso non è che c'è stato un piano dietro. Esatto, non c'era un progetto dietro. Abbiamo detto, ho queste canzoni, ti andrebbe di arrangiarle insieme a me, e ci siamo, ecco, chiusi nel solfalco del suo negozio di dischi, e abbiamo creato uno studio, diciamo, da zero con apparecchiature un po' vintage, se così vogliamo. Un po' molto. E infatti è stata un po', ecco, una sfida, nel senso che inizialmente ci siamo, no, da subito messi un po' dei limiti, dei paletti, quando abbiamo deciso di non usare tecnologie moderne, e quindi non abbiamo utilizzato il computer per capirci, ma abbiamo utilizzato un registratore di traccia su questo, sulla parte tecnica. Al nastro. E questo qui è in 8 piste, e con 8 piste ce la facciamo. Quindi molto, molto old school, sì, possiamo dire. E a proposito di old school, anche le vostre influenze musicali possiamo dire che vengono un po' più dal passato che dal presente. Ecco, se doveste citare qualche band a cui vi sentite affini, chi sarebbero? Affini? Secondo me abbiamo fatto abbiamo unito, diciamo, la passione che avevamo per se così vogliamo, per la musica un po' vintage, quindi dagli anni 60, 70, e per sparare nomi chiaramente giganti tipo Beatles, Donovan, signor Leo, che è un fan incredibile di Led Zeppelin, e quindi quella, ma anche roba moderna, tipo roba di Mac DeMarco. Esatto. Dopo l'abbiamo, diciamo, passata in un frullatore di influenze che può essere a partire dalla nostra adolescenza, quindi dai primi 2000 in poi, tutto il filone indie rock, ecco, e artisti come ha detto Mac DeMarco, artisti anche folk americani più attuali, e l'abbiamo mescolati con queste influenze del passato, e quello che è uscito poi è quello che sta su Iceberg, ecco, non saprei dirti altro. Sì, allora, a fini io sinceramente non ne vedo tanti, anche perché il modo di scrivere testi pure non è proprio una cosa convenzionale. Quindi come sonorità ce ne stanno, in Inghilterra, in America ce ne stanno. Tornando invece più local, la scena musicale di Terni, perché ultimamente anche a Bologna locali che chiudono, insomma difficoltà a trovare spazi per magari musicisti non affermatissimi o non molto conosciuti. A Terni com'è la scena musicale? No, allora, a Terni, non, diciamo, negli ultimi anni la scena musicale non è delle più floride, ma un po' come penso in tutta Italia dal Covid in poi. Infatti molti locali hanno chiuso, si sono reinventati magari a fare altri tipi di cose, tipo ristorazione, eccetera. Quindi ci sono delle realtà che resistono comunque, dei locali che funzionano, ma per citarne qualcuno come live che sta, diciamo il coso, il B-side, sì, che noi ci suoneremo a fine novembre, 29 novembre, che fanno un festival anche, possiamo dire, estivo, che sta diventando importante. Sì, altro oltre questo, a Terni, parte Mishima, che comunque è un altro locale che prima del Covid, insomma, faceva una programmazione con artisti anche dall'estero, era molto interessante. Adesso stanno riprendendo, insomma, siamo molto contenti, però a parte queste due realtà direi che c'è poco altro. Niente, io vi ringrazio molto per la disponibilità. Vi chiedo se volete scegliere una canzone da Iceberg, direi, o una canzone comunque del repertorio di Fringuello per introdurci, per portarci un po' al concerto di venerdì 15 ad Efesto. Sontag. Certo. Non saprei, uno dei pezzi, insomma, che suoniamo all'inizio della scaletta che abbiamo preparato per questi prossimi concerti, quindi mi sembra un po' un pezzo introduttivo del disco, ecco. Perfetto, allora ci ascoltiamo Sontag di Fringuello, appuntamento a venerdì 15 a The Fest, insomma grazie mille e insomma bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, grazie a te. Ciao.